la versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, 16:31 primi 10 secondi in diretta qui dagli studi di Milano della radio. Oscar Giannino vi saluta come sempre, vi ringrazio, vi ricorda l'indirizzo versione di Oscar @radio24.it. Come vedrete anche oggi la puntata viene da un ascoltatore che ci pone un tema e ve lo segnalo subito per consentirvi quindi all'800240024 di telefonare per intervenire o di darci la vostra opinione sul 349-238-6666. Oggi ci occupiamo di una parte di italiani, molte migliaia di italiani, che hanno un problema serio nella vita perché sono disabili. Ci occupiamo di loro direttamente, ci occupiamo dei loro familiari e la domanda è questa. Intervenite per dirci la vostra opinione, la vostra testimonianza di come è peggiorata o, ove non fosse così, migliorata la vostra vita grazie a provvedimenti pubblici assunti in questi anni di interventi, di tagli anche di preventivi regimi preferenziali che erano consentiti ai disabili. Perché l'ascoltatore che vi presento tra poco spiegherà proprio con la sua voce, come ha fatto nella sua lettera, una sua esperienza che dimostra invece come la cecità di un legislatore che non sa distinguere chi è portatore di disabilità rispetto invece a chi non ha questo problema non fa che aggravare le sue difficoltà che sono purtroppo connaturate al suo problema fisico e di salute. Quindi questo è il tema della puntata di oggi, ma prima di presentarvi il nostro ospite e prima di leggere un'altra lettera, ci metto poco, di un altro ascoltatore che è arrivata poco tempo fa e che ci dà un'altra prova di come è singolare questo nostro paese, consentitemi solo di dire che secondo me è molto positivo quello che è avvenuto nell'ultima ora. La Corte Costituzionale è stata costretta a diramare una nota nella quale chiarisce che quello che avete letto su tutti i giornali oggi, tutti i giornali hanno detto, la Corte Costituzionale invita il governo a un'applicazione automatica della sua sentenza a restituire tutto a tutte le pensioni superiori a 3 volte il minimo, l'indicizzazione elevata dal 2012 al 2013 e per gli anni a venire, poiché quella interpretazione io non so come i giornali l'abbiano presa, sicuramente è venuta da un ambito della Corte, ma è una interpretazione che non sta in piedi, perché il legislatore ha la piena facoltà di interpretare il meccanismo attuativo della sentenza della Corte. La Corte Costituzionale, ve lo voglio dire subito, ha dovuto diramare una nota nella quale dice no, naturalmente il governo può intervenire cambiando la legge e vedendo come fare. Quindi chi vi dice che la sentenza si applica e basta, e quindi qualunque sia il multiplo delle pensioni minime rispetto a 3 volte, quella era stata la soglia minima per intervenire bloccando l'indicizzazione in quei 2 anni, ha diritto ma al pieno reintegro, non vi sta dicendo una cosa che sta nell'ordinamento italiano. Poi ne parleremo quando torneremo alle pensioni, sicuramente credo che lo faremo a Conte della Belva sabato prossimo, perché è un tema che tocca molti, che divide molti, però volevo intanto informarvi di questa nota della Corte Costituzionale e ora leggervi una lettera di un nostro ascoltatore, Andrea Guerriero, e spero che faccia riflettere magari qualcuno che sta al Ministero degli Esteri. Cosa ci scrive Andrea? Dice, sono un madrelingua russo, metà della mia famiglia è russa, sono cresciuto a metà tra i 2 paesi, l'Italia e la Russia. Mi avevano suggerito di prendere in considerazione per il futuro la carriera diplomatica, ma ecco la chicca. Nonostante sia madrelingua russo, con un buon inglese, studente di giurisprudenza in regola con altri requisiti di tutti gli altri bandi, non posso essere considerato idoneo per la Farnesina, poiché non conosco una seconda lingua straniera, perché per il ministero esistono solo 4 lingue straniere che abilitano alla selezione per il concorso, cioè inglese, francese, spagnolo, tedesco, come si può visionare dal sito. Evidentemente siamo convinti che la diplomazia lavori solo in francese, come nel XVIII secolo, e poi con l'aggiunta ovviamente dell'inglese. È ragionevole presentarsi ai partner russi, non proprio un piccolo paese, visto i problemi oltretutto e l'importanza dell'interscambio economico, ma anche i problemi, vista la crisi ucraina, l'effetto gas su tutta l'Europa, e quanto dipendiamo dal gas noi, un quarto delle forniture dalla Russia. Ti sembra ragionevole che avere un il russo come lingua madre non sia considerato conoscere una seconda lingua straniera? Andrea, io ti rispondo no, non è ragionevole, è chiaramente per me una follia. E la fotografia di come naturalmente anche qua le norme generali del nostro ordinamento sono fatte apposta pensando a un'idea iperuranica senza calarci poi nel concreto a mia opinione, chi è di madrelingua a una seconda lingua, oltretutto non una lingua secondaria, non stiamo parlando di chissà quale dialetto della giungla amazzonica, l'Italia dovrebbe avere interesse, visti i rapporti che ha con la Russia, esattamente a consentire di diventare diplomatico chi è in questa condizione. Però leggiamo la tua lettera, Andrea, ci grattiamo la testa e speriamo che qualcuno ci ascolti. Andiamo invece al punto su cui gira l'intera trasmissione, cioè come complicare la vita ai portatori di disabilità. E con noi l'ascoltatore che ci ha scritto, che si chiama Walter Brunetti. Buon pomeriggio e grazie Walter per essere qui. Buon pomeriggio Oscar, un caro saluto a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, il tuo problema è che non vedi. Sì, esatto, diciamo che per me è un problema, secondo me, più per, diciamo così, per lo Stato, perché io fondamentalmente ci convivo, quindi vabbè, quando si dice in questi casi il vero handicap è la burocrazia, ma questa è un'altra storia. Però sentirlo dire da un non vedente mi fa riflettere ancora 5 volte di più di quando lo dico automaticamente per tutti. Allora, io ti prego di raccontarci quello che hai scritto nella lettera. Bene, allora, dunque, io nel lontano 2005, dopo aver vissuto per un periodo con altre persone, finalmente vado a vivere da solo, in una casa... Tu quanti anni hai? Ne ho 35, sì. Lavoro esattamente da quando ne avevo 22, però prima ho deciso, prima di fare il passo, insomma, ho messo qualche cosina da parte per pagare gli affitti, certo. Ecco, perché sennò... E allora, vado a vivere e considero l'idea che... per vivere in un appartamento, per avere la prima comodità utile, anzi le prime comodità sono internet e telefono. E allora vado a navigare su internet, a un certo punto mi fiondo su Fastweb, io lo dico proprio, mi prendo anche le mie responsabilità, cioè nel senso, poi vi dico, spiego anche il perché. Mi fiondo su Fastweb poiché quando ho contattato loro, L'operatore del call center mi dice: ma sa, signor Brunetti, Fastweb le permette di avere una tariffa flat IVATA al 4% contro il vecchio, credo 19%, perché nel 2005... Naturalmente stai parlando delle aliquote IVA. Aliquote IVA, certo. Sì. L'aliquota IVA è al 4%. Dico perfetto, cioè in pratica a bimestre andavo a pagare all'incirca 50 euro, che voglio dire è una tariffa molto ragionevole contro le 82 al mese attuali, diciamo così. Eh sì. Allora dico, beh, cavolo, lo prendo subito come abbonamento, perché tra l'altro era anche molto semplice riuscire ad attivare il medesimo, in quanto bastava inviare il verbale di invalidità o il documento rilasciato dalla ASL, insomma la legge 104. Sì, no? Sì. A un certo punto mando il mio verbale, perché è quello che fondamentalmente uso spesso, e mi attivano la flat, mi attivano l'abbonamento, ma senza fare storie. Cioè è stata una cosa che ho detto, ma questo è il paradiso. Quindi funzionava, cioè l'agevolazione fiscale però su quei contratti telefonici, internet, esatto, eccetera eccetera, per i disabili, e funzionava. Perfetto. Benissimo. Poi cosa succede? Vabbè, cambio appartamento perché vabbè, costava troppo. E allora vado in un'altra zona, coperto dalla fibra ottica, richiamo Fastweb e dico: signori, io non voglio distaccarmi da voi. Ah, non si preoccupi signor Brunetti, perché comunque... la sua zona è servita e anche lì le applichiamo l'IVA al 4% come aliquota IVA, quindi dico perfetto, ok. Questo è durato fino al, infatti volevo fare una correzione anche a parole, è durato fino al gennaio 2014, quando mi viene proposto il pacchetto OnPack Sky e Fastweb. Sì. Ok. Che anche lì prima qualche operatore fa delle resistenze, poi evidentemente come cliente mi viene riconosciuta l'IVA al 4%, mm-hmm, ok, come abbonamento. E infatti anche lì i prezzi erano ragionevolissimi. Arriviamo al punto. Nel maggio del 2014 mi arriva la telefonata di un operatore di call center che chiama per conto Fastweb il quale mi dice: signor Brunetti, siamo desolati, ma le dobbiamo dare una brutta notizia. Al che dico: madonna, dico, sarò andato fuori pagamento o fuori fase. No, peggio, il governo ha deciso di eliminare con un decreto, queste sono le testuali parole dell'operatore di call center Fastweb, di eliminare con un decreto l'applicazione sul suo abbonamento dell'IVA al 4%, quindi mi avrebbero buttato via l'IVA al 4% sulle telecomunicazioni. Al che dico: e quindi adesso come mi comporti? Ehi, stia tranquillo, perché comunque noi le applichiamo uno sconto per un anno di 10 euro. E al che dico: beh, ok, mi fermo qua. Però una volta scaduta la promozione, comunque la bolletta si è fatta sentire, perché se prima pagavo 25, 30, 35 euro al mese con l'IVA al 4, l'ultima bolletta è arrivata a 82. Allora dico: signori, se voglio dire un disabile, io parlo, mi preme parlare anche per quelle persone che magari non fanno una vita sociale particolarmente attiva e che usano internet. A maggior ragione a quel punto il telefono e internet diventa, esatto, una dimensione essenziale, essenziale, no? Di una vita. Esatto, io quello che desidero. Lei nel frattempo ha chiarito quali sono i termini normativi per i quali ha perso il diritto ad avere l'IVA agevolata? Assolutamente no. No, perché la questione deriva, in questo paese che fa discendere gli obblighi fiscali non dalla legge, ho dimenticato l'articolo 23, ma fa discendere gli ambiti di applicazione della legge fiscale, nonché gli obblighi fiscali, dalle circolari dell'Agenzia delle Entrate, deriva da un'interpretazione data tempo prima, a dire la verità, che le concedessero anche la conferma del 4% agevolato sugli abbonamenti, a che cosa si applica davvero l'IVA agevolata per i disabili, perché c'è una circolare dell'Agenzia delle Entrate che ha unilateralmente interpretato, e quindi a forza di legge, questa roba è nel nostro paese, io mi ribello a questa roba, però è esattamente quello che avviene nel nostro paese, e ha interpretato che a quel punto l'IVA agevolata è intesa solo per quei sussidi tecnici informatici che servono a facilitare l'autosufficienza, non va bene per i canoni relativi al telefono e a internet, e le cose sono per questo. E naturalmente l'Agenzia delle Entrate ha richiamato più volte gli operatori telefonici al rispetto di questa sua circolare interpretativa. Ecco perché gli operatori telefonici, di fronte all'idea che l'Agenzia delle Entrate si rivalesse nei loro confronti, a quel punto devono calarla ai clienti questa maggiorazione, e stiamo parlando di una maggiorazione che diventa del 16-17%, non so se è chiaro, stiamo parlando di una roba che complica parecchio la vita in termini di reddito disponibile ai portatori di disabilità. Ecco, questa è la fotografia una cosa che naturalmente di cui sono consapevoli solo disabili come Walter che ci hanno scritto. Io invito anche altri, se hanno un altro operatore, a dirci esperienze difformi. La cosa pazzesca è che tutto dipende da una circolare interpretativa dell'Agenzia delle Entrate. Come sapete, però, non si limitano a questi i tagli di facoltà e regime preferenziale ai disabili. C'è chi in Parlamento, legge di stabilità dopo legge di stabilità, si è battuto per questo. Infatti adesso abbiamo la pausa di 60 secondi di informazioni stradali, ma in attesa poi delle vostre telefonate abbiamo un parlamentare di una forza politica che in questo, nelle commissioni affari sociali di Camera e Senato, si dà molto da fare, quindi chiederò a loro, dopo averla presentata, il suo commento a questa vicenda e che quali altre vicende e richieste sono in corso nei confronti dei governi, in particolare proprio per rendere meno disastrata la vita di chi ha un problema fisico di disabilità. A tra un minuto. la versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta con il nostro ascoltatore Walter Brunetti, non vedente, che ci ha illustrato come abbia perso diritto all'IVA agevolata nel suo contratto telefonico e per internet. Walter, però io devo girare subito alcune osservazioni dei nostri ascoltatori che dicono: ma come, non vedente e poi la televisione? A, B, i conti non tornano, perché la differenza dovrebbe essere del 15%, mentre i conti tra le bollette citate prima e quelle successivi da Walter hanno un divario maggiore. Che risponde ai nostri ascoltatori, Walter? Il calcolo viene fatto comunque dagli operatori telefonici, capite? Cioè, io quando ho preso l'abbonamento con IVA agevolata mi sono fidato del calcolo fatto dagli operatori telefonici, e poi a questi signori che dicono che un non vedente ha la TV, che c'è di male? Non è che adesso un non vedente è un extraterrestre, eh? Sveglia! Ecco, se no, scusami, anch'io preferisco che lo dica tu, perché mi è venuto un po' un moto di... però preferisco che sia tu, perché io. Evidentemente chi ci fa queste domande non ha, forse, posso dire, la minima idea di chi, di come viva, lavori, si sposti un non vedente. Ma capito? Non è che non ascolta permette... i giornali radio o non segue un film un non vedente, non so. Signor Giannino, ecco, prego. Signor Giannino, se mi permette, questa è la classica immagine stereotipata, nel senso che molto probabilmente tante persone sono abituate a vedere, mi passi il termine, il disabile, il non vedente, soltanto o come quella persona che è seduta davanti a una scrivania, davanti a una radio, o quella persona che pratica dello sport e basta, cioè queste due cose, quando in realtà un non vedente, se ce ne fosse veramente l'opportunità, ma un disabile in genere potrebbe fare mille cose. Ah, questo a me è chiaro, ma voglio dire, però partiamo dal presupposto che moltissimi di coloro che ci ascoltano non ce l'hanno chiaro. Questo è un difetto oltretutto del tipo di cultura in cui siamo immersi, perché significa che non c'è un'informazione sufficiente di che cosa significa consentire una piena vita, non solo dignitosa, ma una piena vita veramente operativa di lavoro inserita nei contesti sociali a chi è disabile, eh? Perché questo è proprio un difetto, secondo me, della cultura, ancora lo sottolineo tre volte, della cultura pubblica del nostro paese. Allora, abbiamo con noi Giulia Di Vita, che è deputato del Movimento 5 Stelle, perché fate un po' di ricerche su chi si dà da fare nelle commissioni parlamentari per le indennità di accompagnamento assegnate ai disabili, eccetera eccetera eccetera, troverete che il Movimento 5 Stelle si dà molto da fare su questo. Allora, io la ringrazio di essere con noi, cara Giulia, e innanzitutto le chiedevo un commento alla vicenda che ha ascoltato, perché credo che fosse collegata con noi anche se ha ascoltato pazientemente. Qual è il suo commento a quello che è capitato a Walter Brunetti, cioè via l'IVA agevolata perché la circolare dell'Agenzia delle Entrate dice che non ne ha diritto? Sì, intanto grazie per l'invito e buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, diciamo, il mio primo commento mi riallaccerei subito alla battaglia che stiamo portando avanti fin dall'inizio, ovvero quella battaglia dell'ISEE, perché proprio come diceva lei precedentemente si tratta di un problema di interpretazione unilaterale, un po' come aveva detto appunto lei precedentemente, si parla di un'interpretazione di una circolare dell'Agenzia delle Entrate che non rispecchia poi in realtà i reali bisogni delle persone disabili. Lo stesso esatto problema si è verificato con la riforma del nuovo ISEE, che sicuramente tutti i cittadini che ne usufruiscono sanno di che si tratta. Parliamo dell'indicatore della situazione economica delle famiglie, che è entrato in vigore tra l'altro proprio ora, il primo gennaio 2015. Esatto. Praticamente anche in questo caso, e non lo dice più solo il Movimento 5 Stelle, ma addirittura adesso abbiamo ben tre sentenze del TAR del Lazio, il governo ha interpretato la norma primaria da cui discende questa riforma, ovvero un decreto Monti del 2011, il quale diceva che nel calcolo del reddito vanno inserite tutte le somme percepite, anche quelle esenti da imposizione fiscale. Il governo come ha interpretato questa frase? Mettendoci dentro assolutamente tutto, cioè anche le stesse somme che lo stesso Stato dà alle persone per esempio disabili, quindi parliamo di pensioni di invalidità o indennità di accompagnamento. Ma appunto, lo dicevo prima, proprio lo stesso TAR del Lazio ha detto che questa è stata un'interpretazione assolutamente illegittima da parte del governo. E da questo punto di vista il governo che dice? Ecco, da questo punto di vista noi abbiamo cercato, ancora prima che entrasse in vigore questa riforma, di evitare il problema in modo da non avere poi questa situazione disastrosa per tantissimi cittadini. Quindi noi già nell'agosto 2013 abbiamo sollevato il caso, e eravamo in sede congiunta tra l'altro con la Commissione Finanze, ovviamente, quindi Finanze e Affari Sociali, e anche i colleghi hanno riconosciuto che effettivamente poteva essere un problema, però era troppo complicato andarlo a risolvere, cioè andare a modificare quel decreto del 2011. E quindi praticamente noi abbiamo presentato il nostro parere di minoranza, che però è stato bocciato, e quindi il governo ha continuato per la sua strada. Adesso si apre un problema molto grave, perché le sentenze del TAR del Lazio sono state di febbraio. Fino a fine marzo noi abbiamo sollecitato il governo per sapere quale intenzione avesse, e ci è stato risposto che ancora non avevano deciso. Finalmente a metà aprile si saranno chiariti le idee, e quello che hanno deciso è quello di continuare nella loro strada e fare addirittura ricorso al Consiglio di Stato, perché loro credono di essere assolutamente legittimati ad aver interpretato la norma in quel modo. No, scusi, la mia è una risata amara. Sì, naturalmente. La comprendo e la condivido pure, perché noi abbiamo, diciamo, abbiamo cercato di far presente al governo che l'avevamo detto per tempo, si poteva risolvere ben prima dell'entrata in vigore di questa riforma, non l'hanno voluto fare, e perfino davanti a ben tre sentenze del TAR del Lazio loro continuano a perseverare sempre nell'errore. Perché io mi chiedo, e se anche il Consiglio di Stato emette un parere conforme con quello del TAR, chi ripaga ai cittadini tutti questi mesi di caos? Ah, no, adesso è un bel problema, perché gli stessi l'ente locale in generale, i CAF, sono nel caos più totale, perché non sanno cosa fare. Cioè, il governo è stato oltre un mese senza dare le direttive, quindi chiaramente regioni e comuni hanno cominciato a prendere le loro iniziative autonome a livello assolutamente disomogeneo in tutto il paese. Io ho ricevuto tantissime email di tantissimi cittadini, però bisognava calarne la loro realtà, perché giustamente lo Stato centrale non aveva emanato nessuna linea guida per andare avanti dopo queste sentenze. Voi capite bene che considerare parte integrante del reddito a fine ISEE le provvidenze assistenziali a cui si è diritto per il fatto di non averlo quel reddito è un criterio con il quale lo Stato inteso come ordinamento, non solo quello centrale ma quello periferico, si risparmia dei costi, perché non riconosce dei diritti. Ma dovrebbe essere evidente a chi ascolta, a chiunque, anche se non è esperto di contabilità pubblica, che il problema è che considerare reddito ciò che sta per chi non ce l'ha il reddito è un criterio che è una contraddizione addietro, non so come dire, in termini logici non sta proprio in piedi. Naturalmente questo è quello che capita con l'ISEE. Mi tocca una risposta a chi continua a dire: non puoi chiedere proprio tu, Giannino, che il contribuente paghi la televisione ai non vedenti. Che non si tratta di questo, si tratta del fatto che l'IVA agevolata per i non vedenti non deve essere solo per quegli strumenti che li fanno camminare meglio se non prendono ambulazione. Il telefono e internet per un non vedente è una parte essenziale della vita. L'IVA agevolata c'è per quella, non può essere agevolata.